La sedia si chiama pelle e ossa, quindi già è un'indicazione molto chiara della, un po' della, sia dell'origine un po' scheletrica del prodotto, poi vedendola secondo me è abbastanza chiaro, no? Il motivo per cui si chiama pelle e ossa. E poi effettivamente è fatta di pelle tesa su una struttura di legno che è molto simile a, a uno scheletro in qualche modo, perché la lavorazione anche al tatto dà una sensazione molto di legno consumato dall'acqua, no? Ed è una sedia che è nata con l'idea di fare una sedia molto italiana nell'aspetto, ma anche nella produzione, fatta completamente in Italia, è ispirata assolutamente, senza nasconderlo, alle tradizionali chiavarine che vengono prodotte da più di 200 anni in Liguria, e però con l'intento di far diventare questo oggetto producibile in serie, a differenza della chiavarina che sì, è producibile in serie ma è anche molto artigianale, molto manuale, quindi con dei costi molto diversi da questa, dalla pelle e ossa, che ha un costo da produzione industriale, quindi è molto più accessibile. Il risultato, sì, è una sedia da vendere, ecco, non solo da guardare. Partecipi al Salone del Mobile anche con altre opere, per esempio? Sto presentando un tavolo con Valsecchi 1918, che è un'azienda storica della zona di Bergamo e che lavora con il legno, ed è un tavolo smontabile con degli incastri che diventano un po' la caratteristica principale, insomma. Sono strutturali ma anche estetici, quindi la forza visuale del tavolo deriva dalla sua struttura, no? È di legno e cristallo, e anche lì, insomma, il tema è un po' la riduzione degli elementi per abbassare i costi di produzione. Vedo anche che non hai scelto il colore, in linea forse con la tendenza di quest'anno o anche per un tuo personalissimo gusto. Ma io ho un problema con i colori, sono anche un po' daltonico, quindi è strano, un design, no, daltonico no, però non ho, sui colori, mi piacciono tantissimo le sfumature naturali dei materiali, cioè apprezzo molto di più una tonalità del legno che è diventata così, sottoposta alla luce del sole piuttosto che al naturale invecchiamento, diciamo, piuttosto che a una colorazione artificiale di una verniciatura, che è comunque una cosa in più che non vedo necessaria, ecco. Il colore sì, a volte può servire. Io faccio quasi sempre oggetti dove è il materiale di cui sono fatti che colora l'oggetto, quindi il metallo, il colore del legno, il colore della pelle naturale, non trovo quasi mai necessario inserire il colore.